24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Baciami piccina con la bocca piccolina, dammi tam tam tam, ti baci in quantità. Presidente, mi scusi se l'ho richiamata, no, solo per dirle che mi ha chiamato Francesca e chiedeva se poteva portare due amiche, molto belle. Io penso di sì, allora, noi siamo messi così come uomini, sì. Tu, io, sì. E poi io. Dimmi tu cosa sono queste sillabe d'amore, baciami piccina con la bocca, bocca piccolina, dammi tam tam tam, ti baci in quantità, taratatatatatatatata. L'unico ragazzo sei tu, gli altri sono dei vecchietti, però hanno molto potere. Ho due bambine piccole che tanto che non vedo, per cui una fa la giornalista in Mediaset allo Sport, è una napoletana molto simpatica, molto dolce, e un'altra una bambina di 21 anni brasiliana che è un po' la mia, che mi ha pianto al telefono dicendo che l'ho dimenticata, e allora la faccio venire, insomma, senza peso. Mi piacciono le sbarbine, mi piacciono le sbarbine, mi piacciono le sbarbine. Non posso farci niente. Ti piacciono le sbarbine. Credo sempre questo mal di scherzo, faccio tutto lo stesso, come se non ce l'avessi. E questo è la prima volta nella vita il colpo cosiddetto della strega. Strega non preverrà. Io faccio tutto il mondo. Ma non ho letto se ti faccio passare il colpo della strega. Non esiste divisione. No, no, no. Quel che conta è calore. Tutte quelle tante sono troppe. Al massimo averne due alla testa. Ma ce le prestiamo, insomma. La patonza deve girare. Mi piacciono le sbarbine. Yeah, yeah. Sono tornate le intercettazioni, vabbè, sulla patonza deve girare, che bisogna dire, cari italiani. Sono tornate le intercettazioni, adesso lo so, le solite polemiche, i PM nel letto di Berlusconi, ma sì, è chiaro che sono tutte cose, dai, cioè, voglio dire, proliginose. Perché così guardiamo un po' nel letto dell'ex presidente del Consiglio. Su, c'è altro motivo? No, la patonza deve girare, le bambine, gli angioletti, dai, su. Va bene, sono le 6.31 minuti, la 96esima settimana decisiva per la riforma elettorale volge al termine. E purtroppo non c'è stato sviluppo, così come per l'abolizione delle province, ma la 97esima è alle porte, eh? E confidiamo succeda qualcosa. Questa è 24 mattino, eh? Lorenzo Nespoli in redazione, anzi in questo momento in studio, mi porta proprio un foglio, eccolo qua, grazie Lorenzo, Così come Peter Bescapè, il nostro alpino, è in regia. Sono tornate le intercettazioni di Berlusconi con Giampaolo Tarantini. C'è la migliore, però, la migliore è che non c'è in audio, è quando fra questa Francesca dice a Tarantini: ho detto questa frase che colpisce tutti gli uomini, gli ho detto: Silvio, se tutti gli uomini del mondo tendessero la mano, è la tua quella che io prenderei. E Tarantini gli fa: che vuol dire? Non ho capito. E questo per dire, Tarantini capisce, insomma, argomenti un po' più pragmatici, pare. Va bene, 6.32 minuti, dai, voglio subito salutare il grande Paolo Del Debbio. Buongiorno. Che è partito alla grandissima con il nuovo programma Dalla Vostra Parte. Seguivo, bicorna e bicorna. Seguivo anche ieri la tua maledetta Toscana devastata dal vento. Poveracci. Non solo la Toscana, però. No, anche sulla Val Gardena. Sì. Vabbè, purtroppo sì. Leggo che a Forte dei Marmi il 60% degli alberi sono stati sradicati. Guardate che è una cosa incredibile, cioè pensate quanti anni ci vogliono. Pensa per che brutto che la villa di Annunzio, la Versiliana, dove tutti gli anni si fanno gli incontri, la Versiliana, certo. Sono caduti moltissimi. Ah, lì tra l'altro è un... veramente un gioiello, capito? Ma è così. Peccato. È un grande peccato. Voglio salutare anche Marione Adinolfi, il direttore della Croce, torna con noi e lo accogliamo così. Grande. L'inno della viola. Sono 4 anni che aspetto questo momento. Dai. Padoin, la velocità di Salah. Salah in area di rigore ed è il vantaggio della Fiorentina. Capolavoro di Mohamed Salah. 4 anni, La vendetta, come sai, va consumata a freddo. Altro errore. Salah ancora. Salah in area di rigore. Salah, nuovo vantaggio della Fiorentina. Salam alaikum. Adinolfi. Ma manco tifi Fiorentina, voglio dire. No, infatti sono un disperato. Mi aggrappa tutto, tifo il Borussia. Tu mi conosci che sono biondo, sono un po' tedesco adesso. Ma è terribile. 4 anni che mi chiami in trasmissione per questo momento. È una Coppa Italia, ma scappo. Per l'andata della Coppa Italia, non si sa come va al ritorno. No, ma noi la Coppa Italia si sa, la lasciamo sempre agli altri, è una cosa, è una scelta tecnica, cioè non è che uno vince, è contento, a Firenze vincono, no? Adesso stanno fuori per 10 anni perché hanno vinto la partita, bene così, insomma, perché Comunque, come mi scrive il presidente Renzi. Certo, mi scrive un messaggio, ok, maledetta Toscana, come ho detto io, maledetta per il vento, ma benedetta Fiorentina, effettivamente. Allora, apriamo il Parlamento, dai, che c'è da parlare di tante cose. Vado a prendere un caffè, quindi caro del Debbio, c'è da parlare anche di questa intercettazione. Che dobbiamo fare? E parliamo della Patonza che deve girare. Sta ferma. Che dobbiamo fare anche delle considerazioni su queste intercettazioni? Sì, insomma, diventano la nuova, deflagrano politicamente. Ma io non so se deflagrano politicamente, non vedo contenuti nuovi rispetto ad altre che avevamo già conosciuto, quindi voglio dire, non lo so, mi sembra francamente un po' la stessa solfa, effettivamente. Ma insomma, vedo poco di nuovo, ecco. Insomma, gli italiani, se lo dici, c'è stata la digitalizzazione, secondo me la maggioranza dice, ma scusa, non era quella che conoscevamo già? Sì, effettivamente non c'è, cioè che Berlusconi facesse delle cene eleganti era già... Cioè, dov'è la novità, ecco, voglio dire, non mi pare. Ora, tra l'altro su questo la magistratura si è già pronunciata, no? Sul punto fondamentale, quindi non so... Stiamo a vedere, certo che rivengano fuori proprio quando quello, tra pochi giorni. Oggi finisce i servizi sociali. Insomma, dice, ma strano o no? Un po' strano è. Sì, un pochino sì, effettivamente comincio anch'io a credere che ci siano delle coincidenze strane, come vedi. Ho idea, come quando è uscito il Babbo di Renzi, insomma, proprio quel momento devono uscire, non so. Però ma che c'era tempo, no? Le vedo anche in prima pagina sulla Croce, quotidiano, le escort, ma che, Marione, anche voi... Che avete fatto? Ho scritto, guardate che noi abbiamo aperto su un'altra intercettazione, un filino più interessante, cioè un video dell'ISIS in cui c'è uno che parla italiano, cui incredibilmente oggi le prime pagine si concentrano tutte sulle intercettazioni, diciamo, di storie che avevano rilevanza politica forse 4 anni fa, quando Berlusconi governava, ma oggi però insomma veramente sono solo il buco della serratura. Nel frattempo c'è un bel video che racconta che ci sono i foreign fighters italiani e c'è un combattente che sposta un carico d'esplosivo e parla italiano, e non c'è quell'intercettazione sulle prime pagine. Io sono incredulo, e questo scriviamo in un piccolissimo testo che si intitola appunto Escort, spiegando che ci sono un pochino di questioni. Nel frattempo avevamo Renzi che parlava con Putin della Libia, insomma c'erano un po' di questioni di una qualche rilevanza. Oggi le prime pagine dei giornali abbiamo scommesso in questo stellino, si sarebbero occupati delle patonze. con tutta sincerità, dal punto di vista meramente giornalistico, ma sarà un po' più interessante sapere da un'intercettazione di un video che c'è un combattente italiano che sposta carichi. Sì, in questa intercettazione dice mentre spostano. Oppure che ci sono 28.000 profughi attigriti in queste ore, mossi dall'ISIS che scappa. Devo dire che si vede anche nei titoli dei giornali, non prendono le prime pagine, proprio il titolo di prima pagina. Il titolo Berlusconi, ho visto. Sì, libero. Ma il Fatto Quotidiano, cioè, libero il Fatto, sì. Hai capito? Ti svegli con il Fatto Quotidiano, questo del debole, hai capito? Le letture di Aninolfi sono anche la Croce c'ha la storia in prima pagina, però insomma con una certa declinazione. Vabbè. Però del debbio, questo è sì, effettivamente tornano queste cose. È un po', io l'ho detto. Vedremo, no? E andiamo avanti così tutta la vita. Ma no, ma guarda, io l'ho scritto chiaramente. L'unica cosa che mi interessa è proprio fare due risate a leggere queste cose, cioè in maniera pruriginosa. Proprio lo ammetto, non c'è niente, solo capire. Ah, Berlusconi ha chiamato Belen e vediamo che ha detto a Belen. È l'unica comunque cosa. Se tutte le radio. Tutte le radio ne parlano. Se, diciamo, i conduttori delle radio tendessero le mani, io prenderei quella di Milan. Ecco, questo me l'avesse detto, non so, Aurora Lussana, Rossella Brescia, Paola Saluzzi, Chiara Geloni. Però va bene, caro Del Debbio, tutti va tendessero, bene, grazie, anch'io, grazie. Qualsiasi direttore tendesse la mano, io, ecco, mo adesso ne ho due davanti. Ne ho due davanti, io le prenderei uno di qui e uno di là, è così, ecco, democristianamente. Oh, Madonna, uno di qui e uno di là. Avanti, sì, va. Detta così è, sì. Suona malissimo. Povero Peter Bescafè, cosa deve sentire? Mi spiace Brescia, mi spiace, ma io amo il Milan! Questa è la Tiziano Crudeli, questa è grandissima, sì. Mi spiace Brescia, ma io amo il Milan, sembrava fatta apposta. Allora, va bene, politicamente, caro Adinolfi, cosa c'è del debito? Perché c'era un doppio senso in questo, mi spiace. No. Vabbè, Del Debbio, come va la trasmissione? Mi sembra no, che vada no, bene. No, facendo le corna, le doppie corna, insomma, sì. La trasmissione va bene, siamo partiti oltre quello che pensavamo, insomma, va bene. C'è un pubblico che ci segue, dai. C'è un pubblico che questa è la verità. Sì, sì. C'è un pubblico che migra, diciamo, da una parte a quell'altra. No, sì. Bene, che dobbiamo fare? Queste sono cose buone. Vabbè, preparatevi sia tu che Adinolfi, che faremo delle cose grandiose. Va bene, Adinolfi, sei pronto? Ma io sono un estimatore di Paolo, lui lo sa, ne ho anche scritto quando mi divertivo a fare dei confronti, insomma, sul lunedì della televisione italiana, insomma, sono sempre molto interessato al suo approccio molto pop, diciamo, molto pop, insomma, per cui mi intriga proprio dal punto di vista tecnico giornalistico. Bene, adesso quando abbiamo finito i nostri salamelecchi tutti... Non è un fisso, cioè lui è uno che vuole giocare al fisso, questa è la cosa che mi interessa molto, quindi che iper semplifica le questioni, rendendole qualche volta, insomma, fin troppo semplificate, ma con dietro un background culturale qualche volta mi chiedo, ma come cacchio fa? Del Debbio, vista, voi non lo sapete, la gente non lo sa, ma è un filosofo, Del Debbio la gente non lo sa, ma legge, traduce il latino e senza vocabolario, senza croce, vocabolario, vabbè adesso c'è un ingaggio in diretta, adesso questa... No, gliel'ho detto già in privato. Del Debbio, ma è vero questa cosa che traduci il latino così, senza vocabolario? Ora esce un libricino tra un pochino della Università Lateranense e dell'Università Sudata Urbaniana di un certo autore del 300 Poi lo manderò sia a te su un libro sull'usura, lo manderò sia a te che a Magliano. Perché siamo due usurai, non ho capito. No, poi siamo due persone. Ma perché non lo racconteremo? Perché lo racconteremo? No, sembrava un messaggio in codice. Al di là delle intercettazioni, insomma. Al di là delle intercettazioni. Sì, sì. Ma questo è il piano interessante, riuscire a fare questa mescola, diciamo. Vabbè, mi dicono... Mi sottolineo nel frattempo che ci sta Draghi che si compra 60 miliardi di bond al mese. Da lunedì, da lunedì. È incredibile questa cosa che noi trattiamo, le questioni... colossali come fossero le puttanate come fossero. Vabbè, ma guarda che ne so, il Sole 24 Ore apre su questo, anche il Corriere, da lunedì, ma certo, ma da lunedì, ma noi facciamo trasmissione, c'è Focus Economia. Allora, facciamo una cosa un po' più così, Tosi e Salvini, vogliamo parlare di Tosi e Salvini, quella roba seria, telepoliticamente ciccia, diciamo così, insomma. Tosi e Salvini, parliamone, io alle 8:15 ho Tosi, che domanda farai a Tosi, caro Adino? Come è andato il consiglio della Liga Veneta che stanotte sono state certa ragione, cioè questo insomma è abbastanza interessante. La verità è che Tosi ha una linea interessantissima che va a confliggere nel territorio dove la Liga è più forte con Zaia, secondo me facendogli molto male e potendo produrre la cosa clamorosa di Alessandra Moretti, presidente della Regione Veneto, che mi viene da ridere solo a pensarci, insomma, per cui c'è uno che partiva con 30 punti di distacco, che per conflitti interni la Lega, insomma, noi abbiamo Salvini che va tutti i giorni in televisione senza discutere di questo. Sì, che poi la Lega è questo, la Lega è Salvini in questo momento. Esatto, cioè... attenzione, è Salvini, ma con chi va un po', io il 14 vado a... presentare la croce a Verona, proprio a io Verona. Però non sono sicuro, Mario. Non sei sicuro di che cosa? No, non sono sicuro che Tosi riesca a portare via tutti questi voti, perché Tosi ha una buona appeal a Verona, perché lo chiamavano il democristiano, no? Cioè uno che ha messo d'accordo tutti, anche i crediti, eccetera. Fuori da Verona in Veneto non so se ha tutto questo appeal, anch'io sono d'accordo. Paolo, cioè la questione Verona non è una città qualsiasi, no, Verona certo, è la no, però, no, però la... ci sono Padova, Venezia, allora, come dire che nel Lazio c'è cioè Roma, no, però vi metto questa questione, okay. Allora facciamo il caso che Tosi, come ormai è abbastanza evidente, esca dalla Lega, facciamo il caso che nonostante ciò la Lega riesca a vincere il Veneto con Zaia, il giorno dopo Tosi quanto conterà politicamente? Certo, la partita è vivere o morire, per questo è interessante in una politica in cui raramente ci si diciamo accanisce correndo dei rischi. Tosi, ma secondo te Tosi può candidarsi anche in Veneto, cioè fare il terzo candidato e vincere il Veneto? No, non può vincere, ma può impedire a Zaia di vincere. Ho capito, può impedire a Zaia di vincere, però vabbè, ma non così è una vendetta interna e dà il Veneto alla sinistra, e poi Tosi che fa? E questa poi è la Tosi cosa. Diventa un interlocutore dell'area, no, cioè il Veneto alla Moretti, non alla linea. Vabbè, alla Moretti, la sinistra. La linea è... perché la Moretti non è di sinistra, no? al PD. Non lo so. Era una fine stoccatina di Del Debbio, non è di sinistra la Moretti, va bene? Ci siamo intesi, intendevo dire al PD Tosi. Ma per cortesia, Milano, ma si faccia i fatti suoi. Vabbè, dai, andiamo al traffico. Poi voglio capire una cosa da Adinolfi, sempre questa storia del cellulare, quanto sono le chiamate, devi aggiornarci un attimo. Ah, tra l'altro, Adinolfi, è successa una cosa bizzarra, è sparita la segreteria telefonica oggi dalla nostra cartella. La segreteria telefonica, mi sa che hai fatto tu qualche magheggio, vabbè. 24 mattino. Siamo qui allora, niente segreteria, è sparita, colpa di Mariona Adinolfi evidentemente, che... perché te l'ho svuotata, perché tutti i telefoni a me ormai, non telefono alla segreteria. Ma ancora ti chiamano, vogliamo rimpolpare questa cosa? Ho amici invito. Che chiamano al 334-3798-534, ovviamente non chiamate adesso se non siete completamente cretini, il cellulare è occupato in questo momento. Sì, in questo momento sì. Per favore aspettate la fine della trasmissione. Come al solito, istantaneamente, appena visto la trasmissione, comincia la valanga. Inizia a chiamare. E io ho cominciato ad avere anche amicissime. Ma hai conosciuto qualcuno? Ci siamo evoluti rispetto alla tipica telefonata che tu ci hai ricordato. È meraviglioso ormai sono solo lettori della croce che segnalano anche i refusi. Allora aspetta, oggi facciamo un quiz, è il titolo della croce che dovete dire a Mariona Dinolfi per intervenire, per fare questa, è il titolo di pagina 3, dai facciamo, ecco, parla di un paese, il gender arriva in quale paese, quale paese, vabbè, quale paese, dovete dire quale paese. Che... è una parola chiave, una password di una parola. Va bene, va bene. Comunque 334-3798-534 risponde Mario Dinolfi. E comunque, a parte gli scherzi, veramente ringrazio i tantissimi che chiamano, perché è una... è un colloquio vero e molto, molto simpatico. Devo dire, comunque, tu del debito vuoi dare il cellulare? No, no, il paese è Cernusco sul Naviglio. No, non è Cernusco sul Naviglio. Va, no? Bene, va bene, no, sentite questa però. La Boldrini ha fatto la campagna per qua ho due maschietti, vabbè, io anche, quindi è facile, vabbè, adesso chissà che critiche ci attiriamo. Dai, Del Debbio vuol fare la campagna per dire la presidenta, la ministra, l'assessora. Ancora? Eh sì, io dico, a me va bene, a me sta bene, ma io pretendo di essere chiamato il giornalista da domani. Il giornalista. Il giornalista, la Boldrini, sentite, la Boldrini. Utilizzare la declinazione al femminile quando si rivolge la parola alle colleghe e quando si rivolge anche alla presidente, perché io non sono la presidenta. Presidente. Ma no, la presidenta, allora... Ma senti, ma se io dico che la Boldrini ha rotto le palle, no! È molto maschilista, no! Questa cosa. No! Ma non è lo so. C'è cioè il reato del vilipendio al presidente della Camera. No, non lo so. Perché ha rotto le rette le palle. Cioè, è una cosa incredibile. Ma perché non fa il suo mestiere, sta buona? Cioè, e non si può portare la pasta in tavola negli spot della storia della donna sottomessa. Non si può. Perché poi. Come Marioni, ma tu lo dici che la donna deve stare sottomessa adesso? Io dico che come sta bene. Il mio amico Paolo Del Debbio, nella lettera agli Efesini, è scritto da San Paolo che la donna è fondante, sposa come Cristo sposa la Chiesa, e quindi come pietra fondante, la pietra fondante però, è insomma, messa tutto. Diciamo che non viviamo con la Bibbia male, in tasca. Del Debbio, male. Vabbè, ma Del Debbio, perché sbaglia la Boldrini, la presidente? Non sbaglia, parla di cose assolutamente accessorie. Non è che sbaglia, cioè... no, sbaglia proprio, ma possiamo dire sbaglia. Sbaglia, ed è legittimo. Io dico, non me ne frega nulla che in questo momento parli di sta cosa, ma lo dico francamente, cioè non ha rilevanza. Ci sono milioni di donne che non gliene fotte niente. C'è un'elite boldriniana che probabilmente gli interessa se è chiamata assessora invece di assessore. Cioè non... Con tutto che voglio dire, in assessore, come è noto, è un nome che rappresenta sia il maschio che la femmina. Va bene, errore di comunicazione. Ma guarda che si rende antipatico. Ma scusa, poi piccolo consiglio: vai sullo Zingarelli, trovi assessora. Vabbè, però questo è proprio la battaglia che vuole fare, le donne sono sempre più nel ruolo di potere. Ecco perché vedi che Bersani ci ha colto giusto a fare leggere la Boldrini, così si cambiano Zingarelli, e ciò di cui le famiglie tutte le sere vanno a letto e ognuno prega il suo santo e dice... E speriamo che domattina qualcuno cambi lo Zingarelli, che se no come si fa certo. Arriva in fondo al mese, è la preoccupazione di cui tutte le che hanno tutte le famiglie, di cui dovresti occuparti stasera in trasmissione, fare dibattiti, perché dopodiché se una dice, sai, siccome ci sarà gli uffici stampa, tutte le cose di... Oh, ma è un po' che non si esce, un po' che non si esce. Che ci troviamo? Vabbè, è anche vero che dopodomani è l'8 marzo. Dopodomani è l'8 marzo. Quindi. Come, vabbè, stasera come... che fa? Stasera che abbiamo capito che di questo non ti occupi stasera, credo. No, stasera tutta la puntata sul maschile, ragazzi, suggerita. Assessora! È fondamentalissimo. Bisogna cambiare i nomi. Il giornalista Paolo Del Debbio. Il giornalista. Effettivamente, se fossi un tassista uomo, pretenderei che mi chiamassero tassista da oggi. Perché con l'apostrofo, con l'apostrofo, tassista. Ecco, non tassista. E allora com'è allora?

in fotografie, sono caduti i cipressi del Carducci a Bolgheri, sono state devastate case, soprattutto nella Versiliana, alberi che sono abbattuti sui tetti. Anche Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, dice: mi hanno è stato distrutto praticamente tutto il mio parco. Pensate che a Forte dei Marmi il sindaco dice il 60% degli alberi sono stati sradicati. È un danno all'ecosistema terribile. Pensate quanti anni ci vogliono perché un albero cresca, a volte 30, 40, 50, se non 100 anni. Spazzati via, il 60% degli alberi di Forte dei Marmi sono stati sradicati in una sola giornata, in qualche ora. Terribile. E le cronache le trovate ovunque, ovunque. Continua la questione del tema dell'accattonaggio. La proposta, Il Giorno, batte molto su questo tema. L'accattonaggio molesto, è pronto il piano di Alfano, il giro di vite. L'incontro con i vertici dei comuni da parte del ministro dell'interno. C'è anche l'intervista al primo cittadino di Varese, Attilio Fontana, che dice: noi vogliamo confiscare le elemosine di chi chiede la carità. Confiscare le elemosine. Beh, è un tema molto interessante. Come avevo anticipato, New York chiuderà le scuole dall'anno prossimo, decisione del sindaco Bill de Blasio. Perché? Per un fatto di eguaglianza, per il Ramadan. Ci sono almeno 1 milione di abitanti a New York che praticano l'Islam e mandano i figli a scuola, e il sindaco di New York ha deciso l'anno prossimo, per il Ramadan, le scuole saranno chiuse per rispetto dell'Islam. È una decisione non indifferente. Ma rimango sulla Stampa, perché qui c'è la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi, mezza pagina di Vittorio Sabadin sul principe Carlo alla guerra. Perché non gli fanno vedere i nipoti? Li tengono sempre i genitori di Kate, che decidono cosa deve mangiare, quando deve dormire, quando deve svegliarsi. Il principe Carlo, quasi re Carlo, è molto indispettito. Non mi fanno vedere i nipoti. Ma chi se ne frega! 24 mattino. Eccoci qui alle 8:20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, e abbiamo con noi uno dei protagonisti, certamente in questo momento, in questi giorni, della politica, soprattutto per questo dibattito, la metto così in maniera eufemistica, dibattito all'interno della Lega. È Flavio Tosi, sindaco di Verona e segretario della Liga Veneta. Buongiorno Tosi. Sì, buongiorno a voi. Sa che io devo finire questa intervista, quando l'avrò finita devo capire se lei è ancora della Lega oppure no. Diciamo al momento no, perché ieri Bitonci, che è un suo nemico interno dichiarato, qui a questi microfoni ha detto: non lo considero più della Lega, Flavio Tosi. Ma questo è frutto del clima che qualcuno ha creato all'interno del movimento, perché tu puoi uno ti può stare più o meno simpatico, puoi condividerlo meno, ma disconoscere il ruolo scorretto. Veniamo a ieri. Ieri la Liga Veneta, che lei presiede, ha respinto il commissariamento. Ma che vuol dire? Che Giampaolo Dozzo, che è stato mandato lì, voi non lo accettate? Lei non lo accetta? Ma ci sono due motivi, più che io la Liga Veneta, perché la larga maggioranza è stato votato questo documento, e non lo si accetta per due motivi. Uno, perché per commissariare, perché di questo parla il provvedimento, serve un voto del Consiglio federale con una maggioranza dei 3/5, ma questo è un problema tecnico alla fine. Sì. Il problema sostanziale è che non è mai successo e non deve succedere che la Liga Veneta, come qualsiasi altra realtà regionale, ma la Liga Veneta è la più radicata, più storica, più forte, più profonda identità territoriale che è la Lega, venga commissariata a 2 mesi dal voto solo per fare le liste. Cioè, per dire, la Liga Veneta sì, formalmente c'è, però quando si fanno le liste si fanno con una decisione presa da Milano, che è irrispettoso, perché allora tanto vale che le federazioni, le realtà regionali le chiudiamo, diciamo che non c'è più la Liga Veneta, c'è solo la Lega Nord, si decide tutto a Milano. Allora, tanto vale dire questo. Cerchiamo di capire, perché è una cosa fatta a step, a passaggi. Adesso lunedì il Consiglio federale si riunirà e deciderà su questa vostra, questa vostra decisione. Facciamo qualche passo avanti. Se il Consiglio federale insiste, lei cosa fa? Esce dalla Lega? Ma se il Consiglio, se il Consiglio federale mantenesse la decisione, penso che dovrei riunire ancora il Consiglio della Liga per prendere atto di questo. Credo che, non so, da valutarsi, ovviamente non posso essere certo di questo, da valutarci ci sarebbero le dimissioni del sottoscritto da segretario della Liga, perché non avrebbe veramente poco senso prendere la posizione che abbiamo preso e poi far finta, di nulla e dopodiché a quel punto liberi tutti, perché nel momento in cui venisse portata avanti questa linea la frattura sarebbe irreparabile, la ferita o portata alla Liga Veneta sarebbe irreparabile. Io spero spera che non succeda, federale, certo, riveda questa decisione, e questo è chiaro, una decisione sbagliata può essere anche rivista, però è vero che lei ha definito, tutti in retroscena danno questa definizione, una porcata quello che ha fatto il Consiglio federale nei confronti miei e della Liga Veneta. Lei questa frase l'ha detta ai suoi più stretti collaboratori? Allora, nelle riunioni ufficiali, nelle sedi interne, nonché a livello mediatico, non ho mai usato quell'espressione. Dopodiché è chiaro che poi quando si parla privatamente con delle persone si può dire, possono usare anche delle espressioni un po' più. Vabbè, ma qui siamo privatamente, è una porcata questa cosa. No, quando siamo privatamente, vabbè, ma diciamo che noi abbiamo trovato una cosa profondamente scorretta nei confronti della Liga Veneta. Poi ripeto, in privato si usano anche altre parole, altre espressioni un po' più nette, più crudi, ecco. Ma dicono che lei in realtà con Alfano, con Passera, abbia già degli accordi, che sia tutto questione di tempo, ma che la frattura ormai è già fatta. No, allora, per quanto riguarda Corrado Passera, al di là della stima personale, ha dichiarato lui stesso e ha ribadito che loro alle regionali non saranno presenti, quindi credo che quello sia un tema che non si pone, perché appunto la sua formazione non sarà presente alle regionali. Per quanto riguarda Alfano e l'NCD, noi abbiamo, come Liga Veneta, abbiamo detto una cosa, che cioè o si fa una scelta politica di correre da soli come Liga e quindi senza nessun tipo di alleanza con i partiti romani, e questa è una scelta che anzi fra l'altro a noi non dispiace affatto, perché chi vi parla è sindaco di una città dove governa la Lega da sola con delle civiche e tutti i partiti, diciamo, romani stanno all'opposizione. Oppure la scelta deve essere quella di fare una coalizione di centrodestra, se si vuole fare una coalizione di centrodestra, sì. E allora si fa una coalizione di centrodestra, si fa una coalizione di centrodestra, perché non è che per l'elettore leghista l'alleanza con Alfano sia profondamente diversa dall'alleanza con Berlusconi, perché Alfano sostiene il governo Renzi e dice di essere nel centrodestra, Berlusconi, che dice di essere nel centrodestra, ha sostenuto sostanzialmente in tutti i passaggi più importanti, dando gli voti quando gli servono, a Matteo Renzi. Sì. E alla fine, se si fa quel tipo di ragionamento, NSD e Forza Italia pari sono. Le chiedo questo, Tosi. Lei ha detto chiaramente, ora aspetta il Consiglio federale, ma dovessero mantenere questa linea, può darsi che si arrivi anche a una rottura. Ma dovesse rompere, lei sarebbe anche pronto a candidarsi a governatore? Io sono stato, al di là, come sapete bene, gli accordi fatti, mai mantenuti, torti subiti, però sono stato sempre fin troppo leale, corretto, e quindi sono stato il primo a dire la candidatura del governatore Zaia è quella, e la si porta avanti, e così la Liga Veneta l'ha portata avanti, così sottoscritto lunedì a Milano ha votato la candidatura di Luca Zaia, salvo poi essere commissariato. Sì. Però se lei uscisse, a quel punto non è più della Lega, quindi può fare quello che vuole. È chiaro che se ci fosse una frattura, poi uno decide liberamente per sé, per quello che ritiene, ovvio, ma del resto se così fosse non l'avremmo certo provocata noi questa situazione, visto che noi abbiamo mantenuto lealmente la candidatura di Luca Zaia. Abbiamo solo chiesto quello che è un diritto sacrosanto scritto sull'articolo 39 dello Statuto, della Lega, ossia che sia la Liga Veneta a fare le liste per la Lega in Veneto e non Milano, appunto. Quindi lei dice: se loro mi cacciano, la traduco io, a questo punto io sono libero anche di candidarmi. Se loro, diciamo, portano avanti questa frattura, a quel punto ognuno è libero di fare quello che meglio crede, quindi fra virtù si può restare sindaco di Verona, può ritirarsi a vita privata, può candidarsi, andare in seminario, o può anche candidarsi governatore. Mi faccia capire, all'interno della Lega, da chi si sente più deluso? C'è qualcuno? Qualcuno dice Maroni, che è stato anche lui ai nostri microfoni, aveva detto: io lavorerò proprio lunedì per ricomporre la situazione. Si sente più deluso da Maroni? Ma io spero che Maroni, che so che sta provando a portare avanti questo tentativo di ricomposizione, convinca chi ha forzato la mano, perché la mano l'ha forzata il Consiglio federale, convinca chi ha forzato la mano da ritirare quella forzatura. Se si ritorna al rispetto delle regole e al rispetto reciproco, perché c'è anche un fatto di rispetto personale, nel non umiliare le persone, se si torna al rispetto delle regole, e se Maroni riesce in questo tempo, per me è ben volentieri. Ben volentieri. Staremo a vedere. Intanto io la ringrazio, Flavio Tosi. Certo, un giorno verrà scritta questa una lunga pagina del rapporto tra lei e la Lega. Quando c'era Bossi era stato il primo a dire, adesso c'è Salvini e problemi anche con Salvini. Guardi, io sono un uomo libero e, diversamente da tanti altri, antepongo la coerenza a qualsiasi altra cosa, cioè la coerenza e la dignità personale non si barattano e non si svendono. Diversamente da tanti altri, si riferisce a Salvini? No, parlo per quanto riguarda la coerenza, basta guardare la linea politica e le cose che uno diceva e le cose che uno dice, può riferirlo a tanti, a nessuno. Basta guardare le persone, quello che dicono e quello che hanno detto in passato, quello che ha fatto e quello che facevano in passato. Allora, in bocca al lupo, vedremo come va a finire. Grazie a Flavio Tosi, sindaco di Verona e segretario della Liga Veneta a oggi, a venerdì, e poi vedremo che succede. Allora, dopo la pubblicità noi parleremo della Sicilia, tra poco vi dico con chi. Però c'è da dire che è esploso il numero dei vostri messaggi per la battaglia. Se volete ancora mandarceli, mandateceli al 349-238-6666, perché ho un pochino giocato anch'io su questa battaglia della Presidente. La Presidente è giusto, la Presidenta, no, come devo dire, della Camera, Laura Boldrini, la Presidenta. So che io vorrò essere chiamato da domani il giornalista Alessandro Mila, e allora molti mi scrive un camionista, mi scrive un piloto, mi scrive un geometro, mi scrive un commercialista. Vi ringrazio tutti, insomma, per questo affetto e vicinanza. Una gentile ascoltatrice invece mi scrive: io sono una perita, e quindi rimane una perita, però lì c'è il perito e la perita, credo. Però effettivamente il commercialista, io vorrei una battaglia perché si definisse un commercialista uomo commercialista a questo punto. Io sono giornalista, da oggi, Laura Boldrini ha la certificazione, io vorrei essere chiamato giornalista, va bene? Comunque, dopo la pubblicità parleremo con l'assessore al bilancio della regione Sicilia. È un toscano ma vive a Roma, trapiantato lì in Sicilia, portato lì, si dice molto vicino a Matteo Renzi, per cercare di risanare i conti della Sicilia, quei conti che la Corte dei Conti dice sono disastrati. In Sicilia c'è la politica più costosa d'Europa. 24 mattino. Allora, eccoci qua ancora, ben ritrovati da Alessandro Milan. Che dire? Beh, la Corte dei Conti della Sicilia ha detto che più di tutte le altre regioni italiane, più della Camera, più del Senato, in certi casi ancor più rispetto agli altri paesi europei, insomma, più di tutta l'Europa, la regione Sicilia ha i costi esorbitanti della politica. Lo ha certificato nella relazione annuale della Corte dei Conti Giuseppe Aloisio, cioè il procuratore facente funzione della Corte dei Conti Sicilia, a dire: è uno spreco di soldi pubblici. Pensate che la Corte dei Conti ha dato multe per condanne per 39 milioni di euro. Poi queste condanne, come spiegava molto bene Sergio Rizzo di recente sul Corriere della Sera, molto spesso non vengono incassate, credo l'1%, una cosa abbastanza incredibile, ma c'è una persona che è stata messa lì per cercare di risanare un po' i conti di questa regione. Si tratta dell'assessore al bilancio della regione, Alessandro Baccei, che è qui con noi e che saluto e ringrazio. Buongiorno, assessore Baccei. Buongiorno. Allora, intanto dobbiamo fare una piccola premessa su di lei: dirigente d'azienda per tanti anni, è una sfilza di aziende passate, è toscano, è amico di Renzi, questo, o conosce Renzi, questo non è un mistero. Qualcuno dice, anzi, è stato proprio mandato come legame tra il governo centrale e quello siciliano per un ruolo complicato, no, assessore Baccei, quello di ridurre i costi della regione Sicilia. Sì, abbastanza complicato, diciamo che la situazione è abbastanza critica, ci stiamo lavorando. Stiamo lavorando. Mi faccia capire, e lei ha fatto già delle proposte concrete, per esempio equiparare i costi della politica della regione Sicilia almeno alle altre regioni italiane. Come e come si può fare, e si può fare soprattutto? Allora sì, ora stiamo discutendo, dovremmo apprezzare in giunta martedì la bozza di finanziaria che comprende una serie di articoli di allineamento della Regione Sicilia alla normativa nazionale, non solo sulla parte politica ma anche su una serie di altri elementi. Sulla parte dei costi della politica, quello che stiamo proponendo è di adeguare il numero dei consiglieri a quello che è già previsto dalla normativa nazionale, e anche i compensi dei consiglieri a quelle che è di nuovo la normativa nazionale. Quindi numero dei consiglieri e stipendi, perché quanto sono più alti? Lei che avrà visto i conti, mediamente quanto supera? Guarda, io non vedo i conti di tutti i comuni, ma vedo i conti della regione, quindi sì. Le partite che vedo nel bilancio della regione sono i trasferimenti che facciamo a comuni e province. Infatti rientra nella finanziaria, perché noi, a fronte di questa riduzione dei costi della politica, andiamo a ridurre in maniera proporzionale i trasferimenti che facciamo ai comuni. Do io una cifra, mi dica se è corretta, nel senso che con i trasferimenti lei lo potrà verificare. È vero che il Consiglio Comunale di Palermo costa 1 milione di euro in più rispetto a quello del Consiglio Comunale di Milano, per esempio? Le ripeto, noi vediamo complessivamente i trasferimenti che facciamo al Comune di Palermo, che non sono solo relativi ai costi della politica, ma tutta una serie di altri costi, quindi vediamo il totale. Poi non io personalmente non ho visibilità diretta del bilancio, se ce l'hanno c'è la funzione di locali, però insomma non entro nel merito di tutti i comuni della Sicilia, che sono molti. Però assessore Baccei, come la mettiamo l'autonomia siciliana con, per esempio, il ridurre il numero dei consiglieri? Cioè, cosa dovreste fare? Una legge speciale? Rientra nella legge, ora siamo in esercizio provvisorio, stiamo preparando il bilancio di previsione definitivo, abbiamo 4 mesi di esercizio provvisorio che scade il 30 aprile, per cui per il 30 aprile dovrà essere approvato il bilancio definitivo, e ci sono una serie di articoli che vanno a emendare la finanziaria che avevamo presentato per il bilancio provvisorio. Così anche per il taglio degli stipendi? Il taglio degli stipendi avrà effetto da subito, mentre la riduzione del numero di consiglieri ovviamente dalla prossima tornata elettorale. Mi faccia capire, voi potete intervenire sul taglio degli stipendi di chi? Dei dipendenti? Dei consiglieri della regione, o anche dei consiglieri comunali, di tutti? Dei consiglieri comunali siamo parlando. Dei consiglieri comunali. Sulla regione non possiamo, perché l'assemblea è un bilancio autonomo. Esatto. Mi faccia capire il quantum, cioè quanto lei ha pensato di tagliare mediamente, no, dei consiglieri comunali, se ha degli esempi pratici, quanto guadagna un consigliere comunale più o meno adesso e quanto guadagna... Noi ci allineiamo, quello che scriviamo nel testo della finanziaria è l'allineamento alla normativa nazionale. La normativa nazionale scende in secondo classi di comuni, sia nel numero che nell'indennità, per cui in adeguamento. Ora, si possono trovare situazioni diverse nei diversi comuni, per cui non è un taglio in percentuale, ma semplicemente un adeguamento a quello che prevede la normativa nazionale. Secondo lei, perché, assessore, la Corte dei Conti dice che la Sicilia ha il costo della politica più alto d'Europa? Intanto è vero, è chiaro, lei non ha un riferimento a tutta Europa, ma se lo dice la Corte dei Conti ci saranno dei dati. Perché si è arrivati a questo? Io penso che sia frutto del modo di intendere l'autonomia siciliana, quindi su tutta una serie di cose troviamo delle situazioni spesso, nella maggior parte dei casi, di maggior privilegio rispetto alla normativa nazionale, ripeto, non solo sui costi della politica ma anche sulle pensioni dei regionali, piuttosto che sui permessi retribuiti e così via. Ora con la legge finanziaria andiamo ad allineare per tutte queste, andiamo a allinearci per tutte queste cose la normativa nazionale. Diciamo, oltre che un messaggio, oltre che un risparmio di costi, penso che sia anche un messaggio politico molto importante. L'autonomia siciliana, lei l'ha citata, è stata usata forse male, però glielo chiedo, questa autonomia siciliana ha ancora senso così come quella di altre regioni? Quello su cui stiamo lavorando è una completa attuazione dello statuto, perché ci sono da un lato alcune storture che ho detto prima, dall'altro però ci sono delle rivendicazioni giuste in tema di entrate che vanno sempre lette insieme al trasferimento di funzione, ma che potrebbero, diciamo così, portare qualche soldo in più nelle casse della regione siciliana. Per cui insomma ci sono anche degli aspetti che non sono stati applicati, che diciamo in questo momento sono a svantaggio della regione Sicilia, per cui insomma va letto un po' tutto insieme. Però assessore Baccei, mi perdoni, sui giornali ho letto, lei vuole equiparare appunto gli stipendi di sindaci e consiglieri comunali a quelli di tutta Italia. Ho letto sui giornali che il governatore Crocetta non vuole, così come altri non vogliono. È vero che c'è questa battaglia politica all'interno della giunta? Abbiamo fatto una discussione perché la finanziaria l'abbiamo già esaminata con i capigruppo della maggioranza. Diciamo che la discussione più importante è stata sul come limitare il numero di commissioni, perché questo, come avrete letto nei giornali, è stato oggetto di due o tre scandali, per cui abbiamo messo anche un articolo nella finanziaria dove limitiamo comunque il compenso dei consiglieri al 25%, ci fa pari al 25% del compenso percepito dal sindaco. Cioè non si può più attraverso le commissioni consigliari avere gettoni, magari con quelle convocazioni si può, non ne può fare anche 1000 di commissioni, però il compenso sarà pari al 25% del compenso del sindaco al massimo, legato alla condizione che dice che percepisco il massimo se faccio almeno il 50% delle commissioni e delle sedute previste. Quindi in questo modo diciamo che si limita quantomeno i compensi corrisposti, poi insomma, se ci sono da fare 1000 commissioni si faranno. Però la questione politica, insomma, non mi ha risposto, è vero che magari è un po' più delicata, ma Crocetta è vero che vuole l'appoggia sulla riduzione degli stipendi dei sindaci? Perché molti dicono che i sindaci sono in prima linea, sono o dei consiglieri comunali, sono persone che politicamente lottano tutti i giorni, è vero che bisogna tagliare più ai deputati magari? No, certo, questo è sicuramente vero, ma penso che sia vero in tutta Italia, insomma non è vero solo in Sicilia, immagino. Questo sì. Vabbè, però martedì ci sarà questa... Martedì dovremmo apprezzare, esatto, l'articolato in giunta per cominciare a incardinarlo in commissione, esattamente. Mi faccia capire, lei, toscano, poi trapiantato a Roma, adesso mandato in Sicilia per risanare i conti, come l'hanno accolta? Con grandi applausi e con grandi pacche sulle spalle oppure con grande collaborazione? Perché sa, molti mi scrivono via sms e sembra un po' il destino di Cottarelli, no? Presente Cottarelli che è arrivato, però non visto magari benissimo, no? Quello che viene a sistemare i conti della regione Sicilia. E come viene accolto lei? Anche qui ovviamente chi porta cambiamento spesso non è visto bene, soprattutto dalle persone che subiscono questo cambiamento, però d'altra parte devo dire che ci sono diverse persone magari al di fuori delle persone toccate a questo cambiamento, che è la gran parte della popolazione siciliana, che mi sta dando testimonianze di stima, per cui siamo di nuovo a stazione variegata. Ma uno di quei lavori un po' complicati, però quei lavori per cui si dice ma qualcuno lo deve pur fare. Assessore, io la ringrazio veramente, Alessandro Baccei, grazie per essere stato con noi, l'assessore al bilancio della regione Sicilia, quella che secondo la Corte dei Conti ha i costi della politica più alti d'Europa. Vincenzo ci chiama da Palermo, proprio all'800 24 00 24. Vincenzo, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, Vincenzo, eccoci qua. Sì, salve Milan, salve. Grazie per... Vabbè, ma lei ha un telefono di quelli... Ci sente, Vincenzo? No, vai. Pronto? Sì. Adesso... Io sono stia di fermo Palermo. Lì e dica. Ecco, io sono di Palermo e ho 60 anni. Sì. E quindi ho vissuto l'intera autonomia siciliana. hanno scelto sicuramente una persona da fuori, ma poi gli operatori saranno i soliti delinquenti che gestiscono questa regione. Questa regione è fallita. Punto. Questa regione Vabbè, è però fallita. Stai attento a dire delinquenti buttando tutto nel calderone. Milan, io mi chiamo Vincenzo, avete le mie date, non ci sono problemi. Ma no, ma non è una questione di querela, però dire tutti i delinquenti sono quelle frasi. Perché tutti. C'è stata l'ultima riunione del PD dove si è fatta la Leopoldina, no? Dove c'era tutto il riciclato e tutto il pattume. Degli ex delinquenti che hanno sempre appoggiato Lombardo, Cuffaro, che erano là, che sono pronti a riciclarsi. Cioè, tutti? Sì. Guardi che tutte per di fuori. Qua siamo schiavizzati, perché la regione siciliana va abolita come autonomia. È uno strumento in mano a persone che vogliono mantenere quel potere di prebende che si distribuiscono per finanziare delle scuole di formazione fasulle, dei compensi regionali i più alti d'Europa. Ora loro diranno sicuramente queste riforme noi le faremo dopo le elezioni. Dopo le elezioni, sempre dal futuro, sempre dal futuro. Però Vincenzo, guardi, io colgo e raccolgo il suo grido di dolore da siciliano a dire l'autonomia andrebbe abolita. È un tema, è un dibattito, sono stati scritti libri, sono stati fatti articoli, sono state fatte inchieste, molti la pensano come lei, anch'io la penso come lei, però ecco, dire tutti delinquenti, insomma, sono quelle frasi, per carità, va bene, diciamolo, tutti ladri, tutti rubano, poi magari non è proprio così. 24 mattino. Lavoratori, chi non lavora? Quante mail ci stanno già arrivando per la nuova rubrica che partirà presto, di lavoratori che fanno lavori curiosi, strani, belli, appassionati, lavori del futuro, lavori del passato. Ci stanno arrivando delle professioni straordinarie che io non conoscevo minimamente. Non voglio svelare nulla, ma le stiamo tutte archiviando, anche l'arrotino, se c'è qualche arrotino ci scriva. 24 mattino e radio24.it e noi vi chiameremo in onda tra poco, tra qualche giorno partiremo. Voglio tornare per un attimo alla questione, c'è un ascoltatore che mi scrive: per favore basta, mio figlio in macchina con me mi dice: ma papà, ma alla radio non sanno che il genere si declina con l'articolo per i nomi invariabili? Ma sì, ma caro, ma bimbo mio, ti mando un abbraccio, ma certo, è un po' un gioco quello che stiamo facendo, dire che io vorrei essere chiamato giornalista o geometro o commercialista, perché la battaglia di Laura Boldrini mi sembra una battaglia così, non così fondamentale, ecco, tutto qua. Va bene, ma come concludiamo, come al solito? Ciao Italia! Col nostro Ciao Italia! Madonna, ce lo potrebbe fare nuovo adesso che è in Italia. Ciao Italia! I nostri ascoltatori che ci seguono dall'estero, ieri abbiamo ricevuto nei giorni scorsi una mail appassionatissima da Federica, che saluto. Buongiorno Federica! Buongiorno Alessandro, buongiorno dalla Svezia. Dalla Svezia? Come si dice qui? Come si dice lì? Comoron. Che è buongiorno. Tipo buona mattina, morning, come good morning. Sì. Poi mi fermo qui con lo svedese, non mi chiedere nient'altro. Ecco, Federica ci chiama da una città che io non oso pronunciare, vai. Sì, chiamarla città, insomma, è un bel eufemismo, si chiama Helmut ed è in realtà un paese del cuore dello Småland, che è una regione nel sud della Svezia, diciamo a un paio di ore da Copenaghen, più vicino a Copenaghen che non a Stoccolma. Ci segui da lì, perché ti sei trasferita lì? Che fai? Perché magari tante persone è un nome abbastanza impronunciabile, però insomma tanti lo conoscono perché è la sede di IKEA, un'azienda di arredamento. Un'azienda di arredamento, insomma, lavora all'IKEA. Lavora all'IKEA, esatto. Che bello. Che quindi insomma ho iniziato a lavorare in Italia una quindicina d'anni fa e poi ho seguito il mio percorso in Italia, poi è nata questa opportunità di venire nella sede, insomma, per chi è appassionato. Cioè la sede principale lì, proprio la sede principale. È la sede, esatto, fantastico. È la sede dove vengono sviluppati i prodotti, viene definito insomma. Ma, ci sono anche lì gli svincoli della tangenziale con le code al sabato? No, ma è proprio questa. Devo dire che dopo tanti anni ho lavorato a Carugate, tanti anni, sì. Quindi con tutto rispetto per Carugate, ma la vista che avevo dagli uffici di Carugate rispetto a quella che ti ho mandato una foto, perché delle volte sì, che noi pubblichiamo sul nostro sito e su Facebook, assolutamente, c'è la tua foto, la foto della vista. Della vista in cui, insomma, ogni tanto mi accorgo che sto lì a guardare fuori dalla finestra gli alberi, i laghi, non scherzo, qualche capriolo che passa, insomma. Quindi, che bello, ma diciamo tra l'altro io ho visto di recente una fiction, quella The Bridge, che è ambientata tra Stoccolma e Copenaghen, no? E vedo che ci sono tutte queste case con molte vetrate, è proprio così in Svezia, no? Case con vetrate, senza niente che ostruisce. Senza tende. Anche perché lì, comunque la privacy, sì, a parte che molto spesso ci sono chilometri prima che trovi un essere umano, quindi quando passa qualcuno ti fa anche piacere vederlo. Però è proprio perché hanno una ricerca della luce molto forte, perché Lì la luce ce n'è poca. Esatto, d'inverno ce n'è poca, d'estate ce n'è tantissima, e quando c'è la vogliono. Quindi hanno queste grosse vetrate senza tende dove mettono la loro luce, quindi anche molto bello d'inverno, bello, perché in realtà si crea questa atmosfera. E allora Federica, tu che ci segui dalla Svezia, dici, a parte i caprioli e la vista, che cosa hai trovato di più bello da lì e cosa vorresti dire agli italiani? Allora, cosa ho trovato di più bello è la realtà nel work-life balance che si ricerca in Svezia. Mi veniva da ridere prima ascoltandoti rispetto al genere, alle pari opportunità che si ricerca attraverso i nomi. Qui le pari opportunità esistono veramente sul lavoro. Io ho un manager che sono da 6 mesi in maternity leave, in congedo parentale, che uomini, che in Italia è difficile ancora che questo avvenga. E quindi questa è una... Quindi la parità è un qualcosa che si vede tutti i giorni concretamente. Alle 4 le riunioni finiscono perché le persone devono tornare a casa e andare a prendere i bambini, sia uomini che donne. Ma questo che bello, secondo me che bello. È la cosa migliore. Federica, ti ringraziamo tantissimo, un grande abbraccio a tutti i caprioli, a tutta la Svezia, all'IKEA, e viva 24 mattino e tra di me. No, adesso è viva, non ho fatto la pubblicità, non iniziate a stroncarmi, dai, era così una battuta. Dai, ci sentiamo lunedì alle 6:30, ciao. 24 mattino.